siamo venuti qui per risottolineare le nostre priorità in materia di mobilità urbana. Quindi rispetto a Tiper chiediamo assolutamente un impegno per trasformare la flotta di bus in una flotta completamente elettrica e chiediamo che vengano alimentati con elettricità prodotta da fonti rinnovabili, da pannelli fotovoltaici che possono essere installati sui tetti degli uffici e dei depositi di autobus di Tiper. Poi chiediamo più sicurezza stradale per ciclisti e pedoni, che sono gli utenti deboli della strada, ma sono anche quelli che non inquinano, quindi bisognerà proteggerli, non esporli a rischi come è successo anche di recente con il grave incidente che ha colpito appunto una ciclista in via Saragozza. Chiediamo anche il completamento del servizio ferroviario metropolitano, che è una sorta di metropolitana di superficie che serve tutto il bacino bolognese ma anche le province limitrofe, e poi vogliamo quindi un impegno coerente per combattere sia lo smog sia i cambiamenti climatici. Quindi i cambiamenti climatici si combattono superando l'uso di combustibili fossili, da qui la nostra richiesta di tutto elettrico. L'inquinamento atmosferico, che nel bacino padano causa ogni anno migliaia di decessi prematuri, si combatte naturalmente diminuendo le emissioni di gas inquinanti, e anche qui è l'elettrico che ci aiuta. Ecco perché abbiamo fatto questo sit-in, abbiamo rilanciato le nostre priorità, il nostro slogan è basta smog, non rompeteci i polmoni. Avete un'idea a che punto siamo per quanto riguarda la flotta di Tiper? Perché ovviamente ci sono dei mezzi elettrici, ma quanti sono ancora quelli a combustibile fossile? No, la stragrande maggioranza non è elettrica, assolutamente. Vogliamo che Bologna si prenda un impegno, come ha già preso Milano, che punta ad una flotta di tutti i mezzi elettrici. Quindi se lo fa il capoluogo milanese, non capiamo perché non debba provarci anche Bologna. Naturalmente c'è bisogno anche dell'impegno della regione, che quando appunto dà sussidi, dà per l'acquisto di mezzi, punti anche la regione a dare priorità all'elettrico. Il trasporto pubblico comunque dà già una mano riducendo appunto l'inquinamento del trasporto privato, però può fare di più. Certamente, il trasporto pubblico per noi è un architrave della mobilità urbana. Questo anche perché se anche convergessimo tutti sull'auto elettrica, è chiaro che ci sono dei problemi di occupazione, no, delle strade e di spazi. Quindi il trasporto collettivo è sicuramente uno strumento fondamentale. Deve diventare anche questo non inquinante. Per il trasporto individuale elettrico pensiamo che la soluzione ideale per i contesti urbani sia il car sharing, e da questo punto di vista Tiper effettivamente ha iniziato con una serie appunto di auto elettriche che vengono date in car sharing, ma anche questo servizio va migliorato per renderlo ancora più flessibile. Voi sollevate un tema che non è molto battuto, cioè l'ecosostenibilità anche del trasporto pubblico. Direi principalmente perché la questione del trasporto pubblico a Bologna, ma devo dire in tutta Italia, è un problema dimenticato a partire dal governo Draghi e da Cingolani. Nel piano nazionale di ripresa e resilienza il trasporto pubblico è stato messo in ginocchio. Do un dato sulla sostituzione della flotta in Italia, che sono 44.000 automezzi, solo il 10% verrà sostituita, e dei treni regionali, che sono 456 in Italia, di cui la metà sono ancora alimentati a diesel, insomma stiamo parlando veramente di una cosa incredibile, solo il 10% anche in questo caso verranno sostituiti. Ecco, qui c'è un problema molto serio, ecco perché chiediamo, per dare forza alla mobilità nelle città, per diminuire il congestionamento, per renderlo anche efficiente, efficace e confortevole. Pensate che in Italia il dato è il seguente: ci sono 5 chilometri di rete pubblica di trasporto attrezzato ogni milione di abitanti. In Germania ce ne sono 23 chilometri per milione di abitanti. La sola città di Madrid ha 230 chilometri di metropolitana. In tutta Italia la rete di metropolitana è pari a 227 chilometri. Insomma, siamo veramente messi malissimo, e di fronte a ciò il governo ha fatto una scelta, devo dire, negativa per il futuro dell'Italia, per non parlare di altre questioni. Quindi insomma chiediamo una rimodulazione delle risorse, che è possibile perché l'Unione Europea la prevede, per fare in modo che si dirottino molte risorse sul trasporto pubblico per trasformare in maniera positiva la vita delle nostre città.